male non sentirsi più così bene di colpo. Fidati di me che non ho più nessuno che sta male al mio posto. Cambio faccia, non mi basta, questo amore mi sorpassa, va di fretta sottovoce. Fidati di me, fuori non c'è posto per noi. Fidati che poi vedrai, vedrai. Fammi ciò che vuoi per un attimo, fammi stare davanti. Fidati di noi, niente panico, torneremo distanti. È normale non sentirti più così bene al tuo posto. Cambia faccia, non mi manca, la tua voce mi sorpassa.